Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar, è l'antivigilia di Natale. L'antivigilia di Natale, pensa al sultano del Brunei, che bella idea che ha avuto. Hai visto? È vietato, 5 anni di carcere chi festeggia il Natale in Brunei. Pensa come devono tutelare i musulmani, cioè o sono i musulmani che non hanno la fede molto forte, perché questa sì. È la lettura che molti avanzano, forse ha ragione. Comunque, oggi è, per chi festeggia il calendario liturgico, tra i tanti santi di oggi, San Giovanni da Chieti, cioè anzi San Giovanni Canzio, guarda un caso come Canzio, come il presidente della Corte di Cassazione, eletto anche lui 10 mesi prima di andare in pensione, così strappa l'aumento ulteriore della sua bella pensione retributiva, caro presidente Canzio. Ma secondo te Canzio festeggia San Giovanni Canzio in quanto cognome, oppure? Ma perché verrebbe da dire, ma che Canzio no. Di nomine fanno? No. Ma sì, ma solo 10 mesi. Per una volta mi trovavo d'accordo con quelli di Magistratura Democratica che non lo hanno votato. Pensa un po', ecco. Perché cioè, 10 mesi, ma che senso ha? Ma spieghiamola, storia... cos'è questa cosa, perché gli ascoltatori, cioè, è stato perché nominato è procuratore? È stato nominato primo presidente, quindi il presidente della Cassazione, naturalmente oramai, no, della Cassazione nazionale, della Cassazione. Quindi stiamo parlando di uno dei più alti incarichi della magistratura italiana. Naturalmente questo è tutta una roba tra correnti e così via. Lui va in pensione a 72 anni, quindi tra 10 mesi, e lunghissimi mesi per, tra le diverse, candidati delle correnti eccetera. Quindi ci sono dei resoconti sui giornali di oggi che sembra un congresso di partito, e a me sembra poco commendevole che questa prassi, come alla Corte Costituzionale, di nominare alla testa l'ultimo che scade, così gli diamo la gratifica finale di aumento della sua pensione. Ma sempre per l'indipendenza dei giudici, che sono indipendenti, indipendentissimi, per carità. No? Indipendentissimo. Ah, indipendente, volevi ribadire. Sono superlativo, sono indipendentissimi. Assolutamente. Allora, 800 24 00 24. Oggi, più avanti con gli ospiti, torneremo su questa notizia che abbiamo approfondito ieri, cioè sull'assegno di mantenimento ai coniugi morosi. Ci pensa lo Stato. Avremo chi l'ha proposto. Ex amorosi e ora morosi. Esatto. Avremo chi l'ha proposto, la deputata Gea Schirò, ma avremo anche Anna Maria Bernardini De Pace, che contrarissima questa cosa. Però insomma vogliamo parlare un pochino anche di Rai. C'è stata la riforma della Rai, dall'orto che diventa Leopoldino, poteri generali al governo. Una riforma, come dice Enrico Mentana sul Fatto, sono d'accordo, pre-75. Però vedi, tutti i poteri al governo e 420 milioni in più, un calcio in bocca ai concorrenti privati, una Rai che, io sono andato, ho scritto per il Messaggero una roba, ho preso i punti della Leopolda del 2011. Non una parola del punto 16 e 17 con cui Renzi presentò il suo movimento politico nel 2011 sulla Rai è stata rispettata. Non una. Non si una. Diceva che dei 5 canali Rai, 8 erano di servizio pubblico e dovevano restare con la pubblicità, tutti gli altri andavano ceduti al mercato, iniziando da Rai 1 e Rai 2. Ma infatti, allora, questa cosa che il canone Rai porterà un gettito di 420 milioni stimati, ovviamente, l'anno prossimo. E saranno, secondo me, persino qualcuno in più. Mentana dice. Perché c'è il canone in bolletta. Certo. Mentana dice è quasi una norma lesiva della concorrenza. E bisogna fissare un tetto. Ha perfettamente ragione. Perché, e soprattutto aggiunge anche, immaginate l'avessero fatta Berlusconi, che già ha 3 reti televisive. Ha perfettamente ragione. Però vedi come la stessa notizia oggi sul Sole 24 Ore, Giacomelli, viceministro, dice proprio questa è la norma che ci permette di essere svincolati dalla politica. Ma come svincolati dalla politica? Mentana dice dice questo è il modo per legare il direttore per generale. Dipende dal governo pro tempore. Sì. Il governo, a differenza di quanto avvenisse prima del Consiglio di amministrazione, che era tutto politico comunque perché era eletto dalla commissione di vigilanza, nel nuovo CDA ha due candidati, membri del CDA, espressione del governo diretta, poi ce ne sono due, due della Camera e due del Senato. Quindi è più politica che mai, con la differenza che è del governo. Ha più risorse, non si fa nessun tipo di discussione su dove concentrare canone e dove pubblicità. Questa è la riforma di chi prometteva, secondo paragrafo della Leopoldo dedicato alla RAI, dopo aver privatizzare Rai 1 e Rai 2, prometteva una governance come la BBC, cioè fuori davvero i partiti dalla RAI. Oh, e poi c'è questa storia del canone, beh, l'abbiamo trattata varie volte. Allora, è ormai ufficiale, visto che la legge di stabilità è approvata, il canone entra in bolletta. Bisognerà capire come, perché ancora questo non si pagherà a luglio, questo l'ho capito, cioè non si pagherà più a gennaio, col si pagherà a luglio. Luglio col bene che ti voglio. È vero, è vero. Si pagherà 100 euro. Tu eri ancora nato, dai, diciamo le cose come stanno. 100 euro rispetto ai 113 e frutterà 420 milioni in più. Oh, Mediobanca. E in più lo Stato si becca una cosa che si tiene, perché alimenta, lo sai, no? Del totale delle risorse aggiuntive, oltre a questi stimati per la RAI, lo Stato si prende le risorse che si tiene, alimentando il finto fondo per il ristoro dei contribuenti, che lo Stato ha sempre usato per fare spese aggiuntive. Sì, e tra l'altro Mediobanca ieri ha fatto un esame di quella che è l'evasione del canone della RAI. E allora, c'è un dato che ti ha colpito. Ecco, un dato che mi ha colpito. Allora, il dato che mi ha colpito è intanto che a Milano c'è un 42% di evasione, eh? La media nazionale è sul 27%, no? Uno su tre non paga, ma a Milano è il 42%. Crotone e Napoli sono le città meno virtuose da questo, o più virtuose, 55% di evasione, qui c'è da discutere, meno o più virtuose. Però sai, caro Oscar, quanta è l'evasione del canone? Ma perché ti colpisce il dato di Milano? No, mi colpisce perché, cioè, mentre la media è 27, c'è un picco, questo picco a Milano è il 42. Siete voi milanisti? Mi colpisce, nel senso che mi chiedo il perché. Ma sai quanto è l'evasione in Francia e Germania? 1% e in Gran Bretagna 5%. Sì, però sono i meccanismi, sono diversi. Sicuramente. Sicuramente. Tu lo dici come se fosse secondario. Non è perché gli italiani sono evasori. No, non è perché. La RAI fa schifo. Questo è il punto. Secondo me, secondo te c'è un ragionamento dietro di chi evade, che dice no, la RAI non mi piace, che secondo me è una tassa facilmente guarda, forse non ci intendiamo, perché è la più odiata secondo te? Questo me lo sono sempre chiesto. In testa alle classifiche da anni, ci sarà una ragione, no? Perché dici, perché non è servizio pubblico quello che vedo e quindi non lo pago? Ma perché? Cioè, c'è un giudizio di qualità su quello che vedo. Beh, sai com'è? Il problema è che essendo in mano a delle parti, è in netta maggioranza, comunque la pensano gli italiani nella stratigrafia delle loro opinioni, chi se ne accorge e dice ma io devo pagare pure per questa roba? Poi tieni conto che le televisioni che si pagano con le schede hanno ulteriormente approfondito l'inequità di un servizio che è praticamente solo commerciale, più partitico rispetto agli altri che si possono scegliere, però chi lo vuole lo paga. Quindi tutte queste cose accumulate spiegano il perché la gente dica cioè, adesso infatti la tassa di possesso spacciata come canone che torna in bolletta come tariffa e questa è una questione che abbiamo già discusso, e cioè l'escamotage dei partiti. Capisci? Non c'entra niente il servizio. Più che un giudizio sulla RAI, individuano quella come la TV dei partiti. Dice perché devo pagare una TV dei partiti? Questo secondo te è il peggio. Ma questo, siccome è da sempre la più evasa, questo ragionamento c'era anche 40 anni fa. La RAI nasce 30 come anni fa. Politico, non so se è chiaro. No, ma la gente 30 anni fa, secondo te, chi non era democristiano di ai tempi della RAI, che era solo democristiano e mutandoni, non se ne rendeva conto? E tu hai queste idee dello Stato, dei partiti. Di quello che vogliono loro, diventa una RAI ancora più governativa. Questo è il punto. Comunque 800 24 0024, se volete intervenire in diretta, insomma, questo è i temi che affrontiamo, il canone e poi anche appunto questo fondo di solidarietà per sostenere chi non paga, chi è moroso. Che cosa ti ha colpito ancora, caro Oscar? Ci sono tante notizie. Ma ci sono tante notizie sulle banche. Sai che parla Padoan? A Padoan al Foglio dice mea culpa per quella parola interventi umanitari che ho detto sulle banche. Non volevo, dice, è stata riportata a metà. Volevo dire che ci sarebbero stati anche dei drammi umani da affrontare. Però il problema è che, avendo detto il giorno del decreto che era un'operazione amichevole verso il mercato, market friendly, poi 5 giorni dopo diventa catastrofe umanitaria, è evidente che secondo me il governo non si rendeva ben conto di quello che stava facendo. Quel testo l'ha scritto Banca Italia e poi gli è esploso tra le mani, tant'è che la diffidenza, no, che ha mobilitato il Quirinale in questi giorni, quieta, non muovere, tutti buoni, non polemizzate, non cambiamo nulla, eccetera eccetera, nasce anche dal fatto che Renzi si è molto arrabbiato anche per queste cose qua. Secondo me conta questo. Oggi c'è un'altra faccenda inquietante per noi che ce ne occupiamo un po' più approfonditamente, però segnalo che alcuni quotidiani come per esempio il Messaggero, come il Corriere della Sera, riportano queste forti pressioni del governo a dire: dite che è stato la Commissione Europea a imporci no per l'utilizzo del fondo dei depositanti, e minacciano di pubblicare queste lettere della Commissione. Che poi minacciano, voglio dire, pubblicatele, però il problema è che in quelle lettere non c'è scritto quello che fanno scrivere i giornali. Non c'è scritto. Allora perché pubblicarle? Nel momento perché in cui le pubblicassero sarebbero smentiti. Infatti minacciano di pubblicarle, però come vedi non le pubblicano, perché nella lettera della Commissione non c'è scritto non potete usare il fondo depositante, lo sappiamo da febbraio. Dicono: dovete giustificarcelo in questo e con questo e quel modo lì. È un'altra cosa. Però detto questo, questi sono particolari tecnici per così dire, il PD, e questo mi fa piacere, ha depositato una proposta di legge per la commissione parlamentare d'inchiesta e non di indagine. E tra l'altro qui sulla commissione parlamentare d'inchiesta, voluta dal senatore Marcucci, che è un renziano doc, lo abbiamo avuto anche ai nostri microfoni, ricordi, settimana scorsa, questa commissione d'inchiesta pare scrivere Pubblica non sia stata per nulla gradita da Banca Italia. Banca Italia dice: volete indagare gli ultimi 20 anni? Ci trattate come Sindona. E ragionevolmente certo. Chissà perché nella... Come dire, della proposta si dice gli ultimi 12 anni adesso. 12? No. Chissà, dura 12 anni. Mesi e ecco, fatti fare il conto. 2015, 2000, dal 2002. Dal 2002. Ah, prima no. C'è scritto 12 anni, così ho letto che riporta 2003, insomma, se volessimo proprio vedere 2003, 12 anni. Comunque, insomma, ci sono gli ascoltatori. Andrea ci chiama da Verona. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sul tema dei ex coniugi morosi che non si pagano gli alimenti, secondo me è giusto che lo Stato faccia la sua parte. Prima che Oscar impazzisca, lasciatemi dire la mia opinione. No, cioè, ci figurati, certo che sì. Allora, ve lo dico con un esempio. Io ho 28 anni, lavoro da 10 anni, e non sono sposato, non è il mio caso, quindi. Però io sono 10 anni che pago le tasse e non sono mai stato in ospedale, ok? Non ho mai avuto neanche un ricovero di mezza giornata, però nelle mie tasse comunque ho pagato il sistema sanitario, giusto? Sì. L'ho pagato per i miei nonni o per quando starò male io un giorno, speriamo di no. Ok, una parte delle mie tasse ha pagato la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, ha pagato quelle cose là. Vabbè, tutti i servizi, tutto quello che si paga, no, solo allora, le tasse per il corrispettivo di ciò di cui si gode, certo. Sì, esatto, però non è ciò di cui ho bisogno, è ciò di cui alcuni di noi hanno bisogno. È chiaro. Quindi a cosa vuole arrivare? Non ci faccio una lezione su cosa servono le tasse. I diritti generali che hai citato con pattuizioni tra privati derivanti dalle scelte fatte dai privati all'atto in cui si sono prima sposati e poi separati. Che cosa c'entra con i diritti generali che, come ovvio, devono essere sicuramente garantiti? Cioè, godere di un ospedale. È un discorso di comunità. Vorrei dire collettivo, cioè dobbiamo darci una mano vicenda con quello che si può, ovviamente. Cioè aiutare i bisognosi, questo è, in questo caso il bisognoso è il coniuge che è in uno stato di bisogno. Questa è la posizione di Andrea da Verona. Sai che quasi Oscar mi sta quasi convincendo di passare dall'altra parte. No, questo non ci riuscirò mai. No, però scherzo. È anche bello articola meglio il pensiero. È giusta la considerazione che tu fai, cioè lì Andrea da Verona dice: io pago perché gli ospedali funzionano, le scuole, mentre tu dici: ma che cosa c'entra lì? Due privati hanno deciso liberamente di contrarre da privati un matrimonio. Poi le cose sono andate come sono andate e la relazione è finita se la vedano tra privati. Cioè che lo Stato debba intervenire per normare rapporti tra privati è una cosa che ti infastidisce parecchio. No, ma impongo proprio il problema nell'ordine di priorità, perché deriva da questa idea che lo Stato deve fare tutto oramai, entra nella vita delle persone. Io capisco l'obiezione che viene l'obiezione fatta. L'obiezione di Andrea è: siamo nella comunità, è anche aiutiamo quella della proposta quello, di legge che dice quello, il coniuge debole, esatto, no, in stato di bisogno, è chiaro. E col criterio dello stato di bisogno, perdonatemi, il criterio dello stato di bisogno piuttosto che tra coniugi che si separano viene prima, vogliamo dirlo allora, cosa dobbiamo pensare dei milioni di italiani che vivono a 500 euro di pensione minima e nessun'altra pensione, nessun altro trattamento? Cioè se io vi metto in ordine di scala le priorità su chi ha bisogno, beh, nella povertà italiana ci sono tanti che non tanti derivano casi. A quel punto da scelte private poi mutate nell'opinione com'è una vita matrimoniale poi di separazione. Ecco, per dirne una. Comunque tra poco poi l'onorevole Gea Schirò ci spiegherà i perché sì di questo provvedimento. Sentiamo Flavio che ci chiama da Roma. Attenzione a Roma, dove forse arriva il blocco dei mezzi. Hai perché visto. Tronca forse sta per stabilire il blocco totale delle auto. Soprattutto Tronca, a differenza dei professori politici, ha allertato le ASL per i finti, per fare le visite ispettive, perché gli autisti dell'ATAC avevano già iniziato a portare i certificati alla il commissario Tronca, io lo voglio al governo, no, al governo. Flavio da Roma non ci ha chiamato per altri motivi, immagino, ma insomma si sta muovendo oggi a Roma. Buongiorno, sì mi sto muovendo, adesso sono fermo evidentemente per riuscire a parlare meglio con voi. Io volevo parlare di Rai. Io vi faccio una preghiera, sì, e soprattutto a Giannino, spiegate bene esattamente come funziona. Lo so che l'avete già fatto, vi chiesto tutti i giorni, ma solo in parte. Spiegate bene come funziona questo sistema di pagamento del canone all'interno della bolletta Enel. Quando lo capiremo alla perfezione sarà chiaro a tutti, cercheremo di spiegarlo. Prego Flavio. Sono allenato da anni, ho 42 anni, non sono un rincoglionito, con tutto rispetto per i sessantenni e settantenni che ormai in pensione guardano soprattutto i forum, le trasmissioni sulla Rai, eccetera eccetera. Cultura zero. È pappa. Mi sono rotto le scatole di pagare il canone per questa pappa. Quindi, ma lei lo paga o no? Faccio un esempio. E certo, perché comunque lo devo pagare correttamente, rientro nella legalità. Ma vi faccio un esempio. Stavo guardando casualmente una trasmissione su Rai 2, quelli che è il calcio. Io non c'ho nulla con la trasmissione, non c'ho nulla con Nicola Savino, eccetera eccetera. Sì. Ma vi sembra normale che si inquadri tifosi quando avviene qualcosa di eclatante, un gol, non vi dico di quale squadra, e ovviamente con gesti assolutamente riprovevoli, sì, trasmessi in diretta alle 2:30, alle 3:30 del pomeriggio quando ci sono bambini, okay? Io non ho un bambino che aveva assistito a questa cosa, okay? Poi nella stessa trasmissione un personaggio di spicco ripeta con lo stesso gesto davanti alla telecamera, sì, quello che era stato fatto dai tifosi. Non mi sembra assolutamente. Non è cultura, non è per niente cultura, ma qua non c'entra la cultura. Anche il rispetto dell'uso corretto del mezzo. Ma poi soprattutto vogliono metterlo dove vogliono, ci diano l'opting out come in Gran Bretagna, ripeto. Lì il canone c'è nelle reti di BBC che fanno parte del pacchetto servizio pubblico con i relativi obblighi, e invece agli altri canali va la pubblicità, perché in quelli non va la pubblicità. Ma chi ha il modulino e dice io non intendo servirmi dei servizi, delle reti di servizio pubblico della BBC, il canone non lo paga. A noi questa libertà non viene data, perché ci hanno trasferito in tassa di possesso una roba che è servita ad aggirare un referendum, tra l'altro sulla privatizzazione della RAI e così via, un'altra voce non ascoltata dagli italiani. Dopodiché questa tassa sul possesso adesso diventa un pezzo di una tariffa. Senti, Senti, ti leggo questa prima di andare in pubblicità. Senti un po' cosa dice l'ANSA. Questa mattina sull'autostrada Milano-Napoli si è formata una coda di 12 km in aumento tra Pian del Voglio e Balbenino del Mugello verso Firenze per lavori connessi alla realizzazione della variante di Valico, la cui inaugurazione è in programma stamattina col Premier Renzi. Cioè, questo, ma come 12 km di coda? Se, la idea di come siamo messi. Sì. Oh, mannaggia, vabbè. Ma tu l'hai vista la copertina del giornale stamattina a proposito della foto biometrica di Renzi e poi la foto del povero Sala? Ho visto Sala, candidato a Milano, che... Ma perché ridi? Che fa il pugno comunista perché è a fianco al presidente della Bolivia. Tutte le caporetto del caporale Renzi che ti titolaccio un po' così. Però Sala è il pugno chiuso del Volta Gabbana. Ma perché si dice Sala che è stato con la Moratti, nel senso che è stato city manager del sindaco di destra? Questo ha colpito, questo titolo esprime tutto l'astio e l'incazzatura della destra, che oramai è schifata da candidati, capisci, che fuggono tutti da altra parte. Anche perché la destra con Berlusconi oggi fa un'intervista al giorno. Berlusconi dice: candidati a Milano, Bacet, Del Debbio, Sallusti, sì. Parisi, cioè persone che hanno già detto che per vari motivi continua a non averlo il candidato alla destra a questo punto. Allora, in realtà, da questo titolo a sberleffo, sarcastico, duro e pesante del giornale si capisce il problema politico. Se n'è andata anche la Repetti insieme a Bondi. Bondi e la Repetti lasciano Forza Italia. Neanche una poesia gli ha lasciato. Si può pensare di Bondi, ma non che non ci abbia messo passione e cuore Berlusconi, per così dire. Vabbè, dai, dopo la pubblicità 800 24 00 24, cercheremo di capire allora questo provvedimento del pagare il coniuge, lo Stato paghi se il coniuge moroso non sostiene il suo ex compagno o compagna, ex moglie. Da poco. Siamo qui, caro Oscar, 8:40 minuti. Allora, eccoci. Allora, le vostre telefonate all'800 24 00 24. Vogliamo approfondirla questa questione che da ieri sta spaccando i nostri ascoltatori. Più, almeno i nostri ascoltatori sono più orientati a dire è una cosa giusta, almeno quelli che sono andati in onda, insomma, dei tanti che hanno chiamato. E cioè la proposta. Prima firmataria è stata, comunque prima sostenitrice di racconto dei giornali, l'onorevole Gea Schirò del Partito Democratico, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, grazie buongiorno, di essere buongiorno qui. È titolata così: se l'ex non paga il mantenimento, i soldi vengono anticipati in caso di persone in stato di bisogno dallo Stato, ed è stato istituito un fondo a questa tutela di questa. Verrà istituito un fondo. Allora, onorevole Schirò, guardi, qui c'è Oscar Giannino, è totalmente contrario, io sono abbastanza favorevole. Abbiamo chiamato anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. È contrarissima, questo l'ha dichiarato fin da subito, contrarissima. Allora, onorevole Schirò, intanto ce lo vuole spiegare la ratio di questa norma? Sì, nasce da una idea, innanzitutto da inserire nella legge di stabilità, perché oltre una cornice di investimenti un governo deve anche proporre una prospettiva che risponda a delle dinamiche sociali, lasciando verso l'impronta che vuole lasciare nel paese. Infatti ci sono molti investimenti per il sociale, la famiglia, la disabilità, eccetera eccetera. Quindi questo provvedimento appunto di sostegno al reddito, perché devo dire, io sono rimasta stupita, è stato molto enfatizzato. Mi fa piacere, perché poi gli strumenti si debbono anche conoscere da una parte. Ma ce lo spieghi, stupito, insomma, le ha stupite le polemiche, ci dica che cosa prevede. È un'attenuazione tra regole e comportamenti, ma è molto semplice. Durante la separazione il coniuge, uomo o donna, io uomo mi separo e sono uno che ha picchiato la moglie o meno, ho fatto stalking, e sono anche moroso perché spesso il rapporto economico, come anche i casi di violenza dimostrano, non so, tutte le percentuali sulle violenze domestiche o le violenze sulle donne dimostrano, non so, che solo il 7% delle donne denuncia, a fronte di 10 milioni di casi di violenza psicologica all'anno che esistono in Italia. diventa anche un modo, un ulteriore modo per vessare sì, quindi il coniuge oltre a fare queste violenze la persona queste non paga, si parcellizza, ti do 100 euro oggi, e perché deve domani, pagare lo Stato? Pregami. No, ma non paga lo Stato, mi scusi, questo è una cosa che è stata appunto un po' troppo così detta dalla scritta sui giornali. Il fondo di rotazione, io so già poi l'obiezione che arriverà, che è quella che poi lo Stato sarà come dire a credito verso queste persone, ma è un fondo di rotazione in cui lo Stato anticipa la cifra al mio marito che subisce le mie violenze e poi la chiede al coniuge moroso. Che cosa succede? Questo innanzitutto permette l'emancipazione della persona che subisce violenza, perché non è costretta al contatto o a pietire qualcosa, il dovuto, oltretutto in caso di presenza di figli minori o disabili, sì. Questa cosa, e in casi di violenza dove ci ad esempio c'è l'allontanamento coatto, non è tenuto a conoscere il domicilio, cioè una serie di misure di prevenzione, una cornice all'interno del quale l'uomo o la donna che userà questo strumento avrà maggiori possibilità, tutele. No, ma onorevole, è chiara, però facciamo scusi onorevole, mi scusi, facciamo un dibattito, la sintesi è importante perché sennò non c'è spazio per le posizioni di tutti. Lei l'ha detto chiaramente, lo Stato non paga, lo Stato anticipa in caso di stato di bisogno di coniugi morosi e poi si rivale sul coniuge che non paga. Oscar, messa così già ti convince un po' di più o no? No, però sentiamo l'avvocato. Io voglio sentire l'avvocato Benarie De Pace, che è contrarissima, eleggo la mia campionessa in campo. Il bomber Anna Maria Bernardini De Pace, allora, schierata dal mister Giannino, perché allora, è contraria? Intanto è una norma in bianco, perché competenza, tempi, modalità sono tutte demandate a futuri eventuali decreti attuativi, lo dice esattamente il testo che è stato approvato alla Camera, non ci sta neanche a quale tribunale, perché è il tribunale più prossimo alla residenza, quindi già io immagino tutti i problemi di procedura, tutti i problemi che si determineranno. Ma soprattutto io non riesco a capire perché ci debba essere questa assoluta deresponsabilizzazione di chi ha assunto un preciso dovere davanti allo Stato, sposandosi, perché si parla di coniugi, naturalmente poi ci sarà tutta una problematica di tutti i conviventi che comunque sono famiglie, che comunque la Costituzione deve tutelare, e poi i figli sono tutti uguali, perché i figli dei coniugi e non i figli dei non matrimoniati. Allora, in questa situazione c'è una deresponsabilizzazione, vale a dire la persona che è obbligata non farà quello che deve fare, come già appunto tanti fanno, e questa è la cosiddetta violenza economica, che è grave come la violenza psichica, come la violenza fisica, ma anche chi deve avere l'assegno sarà deresponsabilizzato, perché non attuerà, non userà tutti quegli strumenti che lo Stato mette a disposizione, perché ci sono una serie di strumenti. Intanto c'è la garanzia, se tu sai che un marito o comunque il coniuge più forte è in grado di pagarti, allora hai già degli strumenti nel codice, le garanzie personali o reali, le denunce, il pagamento diretto dal datore di lavoro, cioè ci sono tutta una serie tutti degli strumenti che si possono, quindi non li usa, si rivolge allo Stato, allora aggravio dei problemi dei tribunali, perché devi fare l'istanza, poi devi trovare un giudice che stabilisca obiettivamente cos'è lo stato di bisogno. E questo è un punto molto delicato. Ma questo è il punto fondamentale, perché lo stato di bisogno già oggi nel penale viene interpretato in 10.000 modi diversi. Esatto. Ti dicono, ma scusa, intanto ti puoi dar da fare, no? Chi ha una famiglia che puoi lavorare. Puoi lavorare. Poi dice, no, ma guarda, lo Stato ti ha da dire, no, ma forse lavori in nero, perché fino adesso come hai fatto? Quindi ennesime investigazioni, ennesimi approfondimenti. Secondo me, con questa idea che tutti hanno di snellire il lavoro dei tribunali, però si complica, ma poi c'è la mancanza di autonomizzazione. Vorrei capire se tranquillizza un po' la questione, Oscar dice di no, la questione che ci ha spiegato l'onorevole Schirò, cioè che non è che proprio lo Stato paghi, ma se non altro anticipa, ma e poi rifacendo. Allora, mettiamo che lo Stato anticipa, allora ci troviamo con uno che ha veramente i soldi, devi fare l'investigazione per capire dove sono, andare a vedere in Svizzera, vedere se lavora in nero, vedere se ha dei conti sotto falso nome. E tutte queste cose, no? Chi è obbligato, dove lo Stato si dà, quello presso il quale lo Stato si deve rivalere, o è veramente povero per cui non può pagare, sì. Allora cosa fai? E allora vuol dire che non deve si pagare. Può rivalere, siamo noi che paghiamo. Oppure può pagare, ma quanti anni ci vogliono per capire dove ha nascosto i soldi e dove ha messo i soldi? Cioè lo facciamo già adesso noi. Tutti gli avvocati che hanno una controparte che non paga si danno da fare per cercare di recuperare i soldi. Gira con una Porsche, la Porsche è targata San Marino, al ristorante va e sembra che paghi un altro. Però peraltro mi sembra di capire dall'onorevole Schirò che essendo un fondo da costituire ancora, c'è una previsione di spesa già in legge di stabilità di quanto potrebbe costare questo? Rispondere? Ma posso rispondere? Le sì, dico certo. Tutto. Allora, due o tre punti. Primo, io capisco, io non so se l'avvocato Bernardini ha letto il testo del come si trova sul testo di legge della stabilità o soltanto le notizie di stampa, perché appunto il testo è molto completo, compreso il fondo. È un fondo istituito dalla Presidenza del Consiglio e appunto i decreti attuativi, il testo è vuoto perché, come ho detto all'inizio, mi ha stupito anche l'enfasi, perché è stato, essendo una norma nuova e uno strumento nuovo, è scritto espressamente nel testo di legge che si tratta di una misura sperimentale per due anni, sperimentale per vedere come si adatta anche perché ad esempio esiste già in Inghilterra e in Francia, come si adatta alla realtà italiana che, come diceva l'avvocato, insomma ci sono ma c'è una previsione di spesa? €250.000 No, 250.000 il primo anno, 500.000 il secondo. Quindi sono 750. 750 che adesso si andrà, ma in tutto questo è per l'inizio, perché poi dovrebbe entrare a regime il fondo di rotazione, quindi questa cosa è molto importante. Io capisco anche che né l'avvocato Bernardini né la vostra trasmissione è il target delle persone, sinceramente, a cui io mi rivolgo. Parlamentare, come si, in base a cosa lo dice? Ma poi lei a chi si rivolge? Non ho capito. Noi ci rivolgiamo agli italiani. Agli italiani no, però una cosa, una radio, grazie di aver raccolto la provocazione, perché espressamente nella norma si dice persone in stato di bisogno. Sa quanti ci ascoltano di persone in stato di bisogno? Tantissimi. Poi non so tra i clienti dell'avvocato Bernardini, mi fa piacere, però il punto è questo: non è nella norma espressamente dichiarato durante la separazione, perché i problemi principali sorgono durante la separazione, dove si debbono regolare le cose. A me è dispiaciuto sentir dire vai a lavorare, cioè noi abbiamo dei casi, cioè questa cosa non è una norma paternalistica, è un modo per permettere a un uomo e una donna che userà questo strumento di avere la certezza del diritto. Ma no, ma onorevole Schirò, ma guardi, faccio mia l'obiezione. Di diritto, ma qui confondiamo i diritti discendenti da condizioni reddituali generali, legati a se si lavora o si è disoccupati, la sanità, eccetera. Quelli sono i diritti di ordine generale. Le conseguenze delle scelte come previste dalla legge tra privati non è che non configurano diritti, sono obbligazioni relazioni tra privati. Allora, se noi ipotizziamo che lo Stato debba, sia pure nella forma dell'anticipazione e auguri al recupero, farsi carico delle obbligazioni tra privati, perché vogliamo introdurre il criterio che è proporzionato a lo stato di bisogno. Ogni comune italiano identifica l'ISEE per l'accesso ai servizi, che quelli sì vanno garantiti con criteri diversi. Lo facciamo perché abbiamo un'idea A, paternalista, B, perché pensiamo ai voti, C, perché vogliamo deresponsabilizzare i privati che hanno fatto la loro scelta, D, perché vogliamo rendere a questo punto il diritto matrimoniale della separazione eccetera eccetera italiano un ulteriore Vietnam, se mi permettete, quando invece andrebbe, per così dire, debellicizzato, perché questo è uno dei punti su cui giustamente si manifesta il massimo della violenza, della prevaricazione invece che della cooperazione tra ex coniugi, ci sono fattori di genere e così via. Io la penso così, lo dico a voce alta, perché quando vedo questo eccesso di ruolo dello Stato, in questo caso, ripeto, sulle conseguenze di obbligazioni tra privati, mi chiedo quando capiamo che lo Stato queste cose non le deve fare. Per chi è in condizioni di disagio, la lista dei milioni di italiani perché hanno bassa pensione o non accesso ai servizi, quelle sono le priorità di diritti pubblici che non derivano da obbligazioni tra privati. Ma queste sono infatti le obiezioni che ha fatto Oscar, che hai fatto anche ieri. Qua ci dobbiamo fermare, ma avvocato Bernardini De Pace, sa che oggi Berlusconi parla di candidati a Milano sul Giorno, ma non cita lei? Certo, ma perché non sono candidata e non voglio essere candidata. Non vuole essere candidata, va bene, insomma. Intanto la ringraziamo, come ringraziamo l'onorevole. Io sono appassionato, ma non per polemica. Io apprezzo molto che si dà da fare, però bisogna discutere e Certo, grazie all'onorevole Gea Schiro del Partito Democratico. Ci sono 30 secondi. Morte alla sentenza della Corte Costituzionale di ieri, che cassa una norma che avevamo faticato per inserire nel nostro ordinamento. Diceva: la pubblica amministrazione che ha debiti e non paga i fornitori non può assumere nuova gente, come i privati che non hanno il DURC in regola e non pagano, non possono fare le gare. È stata la Corte cassata. Costituzionale la cassa e dice: lo Stato può non pagare i debiti, assume chi vuole. Stato due volte ladro! Neanche Natale lo rende un po' più buono nei confronti dello Stato. Va bene, dai, mi dispiace a tutti gli ascoltatori, ma li recuperiamo magari domani, anche se la vigilia di Natale, se vogliono, su questo tema, parlare, certo, se loro sono svegli. Volete noi lo Stato che paghi, noi ci e siamo. Responsabilizzi? Noi ci siamo, vediamo se ci sono loro, se dormono Ezio da Torino, Giulio da Torino. Grazie, a domani.